Radio 24 Reportage. Kabul, in pattuglia dopo l'attentato, di Cristina Balotelli. Ragazzi, siamo pronti? Pronti? Ok, andiamo. Kabul, 18 settembre 2009. Questo è il racconto in presa diretta di una pattuglia per le strade della capitale afghana il giorno dopo l'attentato che ha ucciso 6 paracadutisti della Folgore. Viaggiamo su 4 veicoli blindati Lince, però usciti dalla base ci divideremo 2 a 2 e faremo itinerari diversi per motivi di sicurezza. Un convoglio di 4 mezzi è più vulnerabile. Arrivati al distretto di Pagman, ci ricongiungeremo. Nel briefing abbiamo preso nota dei warning, dell'allerta su ordigni improvvisati, attentatori suicidi e autobomba. Noi sui veicoli militari siamo l'obiettivo. In particolare ci preoccupano le segnalazioni ripetute di Toyota Corolla, di alcune è nota perfino la targa, in giro per Kabul, pronte ad esplodere. Adesso stiamo uscendo dalla base, quali sono le procedure che seguite? Allora adesso uscendo dalla base procediamo con le procedure di caricamento delle armi. Effettuiamo sia le armi di reparto, che sono le armi esterne, le armi che forniscono maggiore copertura, più le armi individuali come pistola ed SCP. Sono delle normali procedure che vengono fatte sia all'uscita dell'attività e sia al rientro di ogni pattuglia, coordinate naturalmente dal comandante di squadra e dal singolo militare. La mitragliatrice, quanti proiettili può sparare al minuto? Questa qui è una mitragliatrice che riesce a sparare anche più di 800 colpi al minuto. La missione come pianificata inizialmente. Stiamo uscendo dalla base, da Camp Invicta, in pattuglia. Sui sedili anteriori del nostro Lince ci sono il caporal maggiore capo Andrea Longo, 29 anni, comandante della squadra. Al volante il caporal maggiore scelto Antonino Errante, 31 anni. Alla ralla il mitragliere di bordo caporal maggiore Graziano Giustizieri, 25 anni. Sul sedile posteriore alla mia sinistra il caporal maggiore Marco De Lorenzi, incaricato delle comunicazioni radio. Sul secondo Lince c'è il resto della squadra. Come devo sentirmi? Ti devi sentire tranquilla, non ti preoccupare perché sei in buone mani con noi, non ti preoccupare. Certo, fai parte della squadra, quindi sei una di noi. Il Lince sul quale viaggiamo sta andando spedito a 70 all'ora, proprio per evitare le autobomba. Se qualcosa parla... Parla, ok, comunica, fai capire a tutto il resto della squadra cosa sta succedendo. Occhio a questo tumore sul camion. Le strade che dobbiamo percorrere sono piene di warning, di allarmi, in particolare di allarmi autobomba. Ricordatevi anche che nei giorni passati, va bene, c'era il warning di personale con armi portatili sulle biciclette, quindi occhio anche a quelli. Il comandante della nostra squadra, Andrea Longo, ha appena detto di stare anche attenti perché nei giorni scorsi c'era del personale armato sulle biciclette. Tutti i militari che escono in pattuglia hanno un massimo livello di allerta, non deve sfuggire nulla, ne va delle nostre vite. Un blindato e l'altro, le squadre comunicano attraverso la radio. Cerca di stare più vicino, Nightmare. Occhio qua, occhio qua, appena si libera l'incrocio passiamo. Velocità a razzo praticamente. Alcuni camion ci passano vicini. I punti più pericolosi sono proprio gli incroci, perché sei costretto a fermarti. Occhio macchina. Ogni auto che ci sfreccia vicino può essere un pericolo. Dobbiamo attraversare Kabul da una parte all'altra. Ci muoviamo a velocità costante quando la strada lo permette. Quelle che prendiamo non sono asfaltate, ma il lince, che pesa quasi 7 tonnellate, è agilissimo. Mano a mano che ci avviciniamo al centro di Kabul, troviamo più traffico e ingorghi. Sono i punti di maggior pericolo, come quando ci troviamo in una zona che è un enorme mercato all'aperto. La tensione aumenta. A bordo strada ci sono casupole fatte d'argilla. Si vedono dei bambini afghani e qualche soldato afghano. Viene attuata la bolla di sicurezza. Si tratta di creare una distanza di sicurezza tra noi e l'eventuale pericolo, anche impedendo ad altri mezzi di avvicinarsi. Il comandante di pattuglia ha appena detto alla persona che sta al volante: vai a razzo, perché qui siamo vulnerabili ovunque. Marco, dimmi, digli Antonino di andare se vuole, sai? Sì, Antonino. Il nostro blindato Lince procede veloce su una strada decisamente dissestata, piena di buche e di sassi. Diverse automobili ci passano vicine e anche camion. Si vedono tanti bambini che giocano con gli aquiloni. Cristina! Sì. Quando sentirai, noi abbiamo delle matite, si chiamano matite Minolux, ok? Che sono tipo dei razzetti rossi, bianchi, di colore diverso. Sentirai tipo da qui uno sparo, va bene? Sì. Questi sono tipo, c'è presente Bengala che si sparano a Natale? Sì. Sono tipo quelli, ok? Che fanno capire agli altri che si devono spostare, va bene? Ok, cioè fanno capire alla popolazione afghana che si devono spostare dalla strada. Quindi quando sentirai uno sparo, stai tranquilla, siamo noi, va bene? Va bene. Siamo adesso in una zona molto popolata, c'è gente ovunque. Per esempio qui, Cristina, non possiamo attuare la bolla di sicurezza, perché comunque ci abbiamo macchine dappertutto. Adesso cerchiamo di farci spazio per toglierci dalla strada il più presto possibile. Che cosa succede se non ci riusciamo? Ci riusciamo. Ora siamo in una sorta di bazar. Di fronte ad un pericolo imminente, prima di aprire il fuoco, che è una misura estrema, si usano tutti i possibili deterrenti, dalla gestualità ai warning shots, dei razzetti innocui che fanno lo stesso rumore degli spari, detti matite Minolux, servono per segnalare di spostarsi. Questo si chiama escalation force. Andrea, dovremmo le coordinate della pattuglia. Vai, ok. È stata sparata una cosiddetta matita? Sì. In questo momento siamo bloccati. Certo che fare un incidente in queste condizioni è facilissimo. Dicono di stare tranquilla. Il punto più vulnerabile è stato passato. Vai a togliere quell'individuo da lì. Vai! A palla! Dicevo che questo mezzo è blindatissimo, ok? Quindi se anche dovessero sparare, i proiettili non penetrano la corazza del blindato, ovviamente? No, non penetrano. Zero. Vedi che ti stanno sparando soltanto, non lo senti nemmeno, mi spiego. Però il nostro maggiore rischio sono le autobomba e le bombe umane. Certamente, sì. È un rischio, cioè, superato una quantità di esplosivo. Ve l'aspettavate questo traffico? Sì, in alcuni punti sì. In alcuni punti della città il traffico è inevitabile, non ci si muove, si resta bloccati. Vedi se ce la fai che ci passiamo dalla bomba. È facile immaginare come un'autobomba può avere successo in momenti come questi. C'è polvere ovunque, alcuni girano con la mascherina sulla bocca. Appena usciti dall'ingorgo, il mezzo riprende velocità. Siamo usciti dalla zona super trafficata. Questi ragazzi sfidano questi pericoli ogni giorno e il bello è che lo fanno volentieri. Sono contenti di fare qualcosa per l'Afghanistan.